Io vorrei chiedere a Lorenzo un chiarimento sull'operazione di revisionismo storico che ha effettuato Fanon, cioè sapere se questo revisionismo storico, il fatto che lui sostanzialmente abbia negato il concetto di autoliberazione dello schiavo a proposito della rivoluzione di Santo Domingo Haiti, cioè, sia legato al fatto che se lui avesse sostenuto questa ipotesi, cioè la realtà, tutta la sua costruzione teorica e la non applicabilità della dialettica servo signore nelle colonie, quindi sarebbe, cioè, Sì, un apparentemente si errore. sarebbe contraddetto esplicitamente. Certo. Cioè, è questa la causa o sono altre cause? Ma diciamo che c'è, per esempio, in uno dei più importanti biografi di Fanon, David Massey, che ha scritto una biografia su di lui, lui sostiene che Fanon non conosceva la rivoluzione di Haiti perché Sì, ma come? era stato educato dalla Francia, dall'impostazione dell'educazione francese che aveva insegnava il fatto che i neri erano stati liberati dai Ma francesi. come ha Però detto, assolutamente Sopra Terra il Sopraffare a Césaire, quindi già Césaire. questa Quindi considerazione è questa cosa totalmente non ha senso. sballata. E poi lui cita, poco prima di parlare di Hegel, cita adesso mi viene il nome, Romain, il presidente del Partito Comunista Haitiano, quindi insomma. Ma secondo me non era tanto perché poi il suo modello teorico non avrebbe più funzionato, ma perché nella condizione degli antillesi, degli anni 50, c'era comunque questa percezione, questa volontà di essere dei francesi, di assimilarsi completamente ai francesi, e quindi appunto è un discorso tutto retorico e tutto polemico. Cioè, se avesse detto alle spalle della tradizione culturale antillese c'è una grandissima tradizione di lotta politica, però sostanzialmente fallimentare, perché poi dopo con quella tradizione alle spalle siamo a questo punto qua, non avrebbe potuto fare tutto il suo discorso sul ridiventare soggetti attivi della propria storia, no? Quindi secondo me è tutto insomma retorico e con questa funzione di polemica contro l'egemonia culturale francese.